Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Confesso che non so cos'è una tavola armonica di un violino. Ah, ma adesso ci arriviamo subito, appena dopo i titoli, perché questa è una puntata un po' estiva e un po' musicale. Via, i titoli. Raggi X e ultravioletti per scoprire i segreti di un violino Stradivari di 3 secoli fa. Ancora scienza e musica. Alla Stanford University hanno scoperto uno spartito di Luigi Cherubini che era stato completamente cancellato dall'autore stesso. Traffico illegale di farmaci. Le cifre sono esorbitanti. Si parla di un giro d'affari da 75 miliardi di dollari, in costante crescita grazie alla vendita online. Controcorrente, ma allineati, è la recentissima scoperta nel campo della fisica dei fluidi. Si comportano come il traffico autostradale. Cos'è? Eccoci qua. Cosa vuoi sapere? Tavola armonica di un violino. E allora chi lo chiediamo? È un violinista. Ad un esperto. No, noi abbiamo solo... Molto di più. Noi abbiamo, sai, abbiamo solo ricercatori eccellenti. Questa volta siamo andati nel laboratorio Arvedi, che è un laboratorio specializzato nello studio di legni antichi dell'Università di Pavia. Quindi diamo il benvenuto a Marco Malagodi. Buonasera. Buonasera Malagodi. Buonasera. Voi, insieme ad altri ricercatori di, poi lo diciamo, dell'Università degli Studi di Milano, l'Università di Pavia e l'Università Milano Bicocca, vi siete messi insieme e avete studiato una tavola armonica, adesso ci dirà che cos'è, di Antonio Stradivari di circa 3 secoli fa. Bene, intanto che cos'è una tavola armonica? La tavola armonica è la parte superiore del violino, quindi è quella che si vede sotto la tastiera e sotto le corde. E che ha una funzione molto particolare nella sonorità, più di quella esattamente, sotto. Esattamente. Diciamo che tutti i componenti del violino sono componenti che hanno a che fare con l'acustica. Però in particolare la tavola armonica ha una funzione, diciamo, principale. È quella che si appoggia tra la guancia e la spalla, insomma. Sopra però. Sopra, eh? La parte sopra. Sopra. E dunque, okay. Perché vi siete presi la briga di studiare questa tavola armonica? Tra l'altro preziosissima, ricordiamolo. Sì, dunque, intanto Stradivari tra la fine del 600 e l'inizio del 700 aveva costruito una serie di strumenti ad arco che avevano la peculiarità di essere decorati. Quindi lungo il bordo appunto della tavola armonica lui aveva costruito una decorazione di colore nero con elementi bianchi che caratterizzavano questi strumenti. Ecco, gli ascoltatori non lo possono vedere, ma lo metteremo appena finita la registrazione sul sito, perché ci avete mandato una foto ed è effettivamente molto bella, è tutta decorata, è bianca e nera, un ricamo, come se fosse un ricamo. Esattamente, proprio come se fosse un ricamo. In realtà sono degli intarsi, cioè praticamente la tavola armonica viene tagliata e viene riempita di queste decorazioni. Ecco, voi attraverso i vostri sofisticati mezzi che cosa avete scoperto? Allora, in collaborazione appunto, come ha anticipato lei, con l'Università di Bicocca e di Milano Bicocca, l'Università Statale di Milano, abbiamo fatto delle analisi non invasive, cioè analisi che non prevedono alcun tipo di prelievo da parte del di alterazione strumento. Quindi, certo. Utilizziamo materiali che praticamente emettono onde elettromagnetiche, quindi non dobbiamo fare nessun tipo di campionamento sull'opera. Quindi raggi X, raggi UV e microscopi. Infrarosso. E anche emissione in infrarosso. E praticamente abbiamo cercato di analizzare, innanzitutto di capire se c'erano delle vernici ancora presenti sulla tavola armonica, abbiamo visto che praticamente erano totalmente assenti. E a quel punto ci siamo concentrati molto sull'aspetto proprio di cercare di indagare i materiali che compongono la decorazione. Ecco, siamo curiosi. Ma dunque, i risultati sono estremamente interessanti. Intanto, presso il laboratorio Arvedi, con le tecniche all'infrarosso, la microscopia, abbiamo cercato di indagare le caratteristiche proprio strutturali del materiale. Siamo riusciti a capire che parte di quelle decorazioni nere, che sono chiamate in termini tecnici filetti, che sono quelle strisce laterali alternate bianche e nere, in realtà sono delle strisce di legno colorate con un inchiostro ferrogallico. Quindi un inchiostro che si usava per scrivere, esattamente, proprio quello che si usava per scrivere negli spartiti, eccetera. Questo appunto è un elemento abbastanza interessante, perché l'alternativa all'utilizzo del legno tinto era l'utilizzare un legno naturalmente nero, come poteva essere il legno di ebano. Un altro elemento importante è che la matrice nera che voi vedete all'interno della decorazione, quella parte centrale nera, è costituita praticamente da legno di ebano, in questo caso legno di ebano però macinato, quindi potrebbe anche essere un legno di ebano di scarto in qualche modo. Un frullato modo di ebano tenuto insieme, tenuto insieme da però da una colla, probabilmente una colla animale, si usava molto in quel periodo le colla di coniglio, che è una colla ottenuta che sostanzialmente da un punto di vista chimico è collagene, e quindi dalle ossa oppure anche soprattutto dalla pelle. E invece tutte quelle parti bianche molto, molto candide cosa sono? Quelle parti bianche sono avorio, sono delle decorazioni appunto delle parti, sono delle losanghe, dei cerchietti in avorio che alternati danno questo effetto praticamente estremamente piacevole. Il motivo per cui avete fatto questo tipo di ricerca è perché questo strumento è un po' anomalo nella produzione di Stradivari. Lo strumento fa parte di una serie di strumenti decorati. La cosa che a noi interessava è soprattutto iniziare a investigare su che tipo di materiali venivano utilizzati. A noi interessa per due funzioni: una sostanzialmente per l'aspetto storico, sì, per riscoprire le ricette di una bottega liutaria tra le più importanti della cavallo del 600 e 700, e poi ci interessa soprattutto da un punto di vista anche conservativo, perché conoscere quei materiali significa poi proteggerli meglio. Esatto, perché in generale effettivamente può darsi che sbagli, dico, ma quando si vedono tante immagini insomma o anche nei musei di Stradivari non erano così decorati percentualmente. Esattamente, sono una serie di strumenti, la gran parte degli strumenti Stradivari sono i classici violini con solo il filetto laterale, ecco il filetto invece è presente anche nei violini diciamo più canonici. Quindi c'è stata questa produzione molto singolare, chissà, forse si potrebbe anche capire perché a un certo momento li ha costruiti, forse potevano essere di maggior pregio, sì, o vendibili di più, chissà. Forse questo è il motivo. Questo tipo di interventi, colle varie, intarsi, non alteravano la qualità del suono, insomma, oppure ecco, chissà. Questo è un elemento interessante ed è un elemento che secondo me andrà investigato. Perché è chiaro che lo scavo della decorazione, di una decorazione di quel tipo, incide nella profondità del legno e quindi probabilmente può avere un'influenza sul suono. Infatti, per quanto riguarda proprio il legno che compone questa tavola armonica, avete capito qualcosa? Si capisce da che specie arriva, di che origine è e se c'è differenza rispetto agli altri Stradivari che sappiamo appunto suonare in maniera incantevole, quindi lui aveva molta attenzione per il tipo di legno. Dunque, il legno della tavola armonica è un abete in genere, quindi anche questo è un abete. Tra l'altro su questo è stata fatta dall'università Milano Bicocca la datazione dendrocronologica, quindi è stata datata esattamente l'età. E per dimostrare insomma che in qualche modo fosse suo, di quel periodo. Esattamente. Ovviamente la densità dei materiali ha un'influenza sul suono emesso. Sì, sì. E questo sarà parte chiaramente di un progetto che noi abbiamo in corso adesso a Cremona, presso il Museo del Violino, il nascente Museo del Violino. Sì, perché Antonio Stradivari era il liutaio di origine cremonese, quindi la città sta preparando un laboratorio, se vogliamo dire, all'interno del museo. Esattamente, sono una serie di laboratori in cui verranno analizzati e studiati diversi strumenti anche Stradivari. Bene, allora ci faccia sapere magari se viene fuori qualcos'altro di interessante dal punto di vista scientifico, ovviamente. Grazie, buona serata e buon lavoro. Grazie. Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Federico, come ti sembra questa musica? A me piace. Questa è uno spezzone, una parte dell'aria della Medea, continuiamo a sentirla. Composta tra la fine del 1700 e l'inizio del 1800 da Luigi Cherubini. E pensa che Il suo autore, Cherubini, l'ha completamente cancellata. Gli ha messo una riga sopra, potremmo dire in termini moderni. È stata completamente ricoperta dal nero di fumo. È stata cancellata. Non è anormale, perché molte volte gli autori, anche i pittori, anche i letterati, buttano via delle cose belle. E allora lì cosa succede? Qualche secolo dopo arrivano i ricercatori di una qualche università che attraverso i raggi X le tirano fuori. Questo è un po' il contenuto, l'oggetto di un articolo di Patrizia Caraveo di qualche domenica fa, pubblicata sul Sole 24 Ore. Diamo il benvenuto a Patrizia Caraveo e ci facciamo raccontare un pochino di questa ricerca. Patrizia, buonasera. Buonasera. E ti diamo del tu perché tu sei direttrice di un istituto di astrofisica di Milano, astrofisica spaziale se non sbaglio, no? Certamente. Però insomma ormai sei una giornalista stabile, divulgatrice, scrivi un sacco di articoli, insomma fai un po' il nostro lavoro, però non è bello verso Cherubini, lui voleva buttarla via. Infatti Patrizia insomma, ma conclude dicendo: ma sarà contento Cherubini? Sì, perché appunto diciamo una cosa è andare a recuperare un manoscritto antico che secoli dopo era stato riscritto per riutilizzare una pergamena, come era successo qualche anno fa quando la stessa tecnologia è stata applicata per ricostruire un testo di Archimede, per esempio, che e lì c'era stato chiaramente la volontà di recuperare una pergamena che evidentemente è qualcosa di estremamente utile e estremamente di valore all'epoca per scrivere qualcos'altro. In questo caso era stato proprio l'autore che forse seccato del fatto che la sua opera non avesse avuto una diciamo una buona critica, non aveva avuto successo nella prima rappresentazione a Parigi, ha pensato che forse il pubblico si fosse annoiato perché era troppo lunga e allora ha cercato di sforbiciare via qualcosa e ha sforbiciato via quest'aria che in effetti quando è stata ricostruita con la spettroscopia X dimostra di essere una musica assolutamente piacevole da sentire. Però chissà cosa... Certo non lo sapremo mai se non gli piaceva, se l'ha fatto per critica nei confronti del pubblico. Se era una specie di vendetta rispetto al pubblico, ho fatto una grande cosa, non la capite, chissà. Tolgo di mezzo. Però i ricercatori di questa cosa, diciamo, un po' se ne fregano e loro vanno dritti al punto. Utilizzano i loro raggi X, come abbiamo detto prima, per il violino, adesso per tirar fuori la musica. E che tipo di ricerca che fanno? Avviene questo? È un'applicazione di una ricerca che viene fatta all'Università di Stanford in California, dove hanno un acceleratore che accelera particelle, ma le particelle per essere accelerate, diciamo così, devono essere guidate in una traiettoria e per guidarle in questa traiettoria bisogna farle curvare nel fare questo le particelle obbediscono all'ordine di curvare che è dato da dei magneti ma emettono radiazione perché è la fisica che quando loro cambiano traiettoria devono emettere radiazione. C'è produzione di radiazione, sì. E questo è una cosa che ai fisici non piace per niente perché si danno tanto da fare per accelerare le particelle e poi questi perdono energia e quindi non è per niente carino. Ma a Stanford hanno trovato un modo molto astuto di riutilizzare questa energia persa, che sono dei raggi X, per appunto costruire questo fascio estremamente compatto, estremamente sottile e quindi estremamente preciso di raggi X con i quali viene fatta veramente una infinità di ricerche di fisica fondamentale ma anche di scienza dei materiali perché appunto si va a vedere esattamente la struttura di materiali, si fanno radiografie microscopiche che sono di grande interesse per tantissimi campi del sapere, e ci sono queste piccole diciamo deviazioni culturali che sono oggettivamente sono molto interessanti, però interdisciplinari. E in particolare lo spartito della Medea gli è stato commissionato? È stato prestato dalla biblioteca nella quale sono conservati. Un fisico che è anche un musicista, diciamo così, sapeva di questo spartito, aveva visto in biblioteca questo spartito annerito e avendo letto quello che l'università di Stanford aveva fatto per recuperare il manoscritto di Archimede, a questo punto ha proposto all'università di fare anche questa cosa. Però Cherubini allora non l'aveva buttato via. Non l'aveva buttato via, l'aveva proprio completamente ricoperto di nero. Però l'ha lasciato lì, infatti l'abbiamo. Sì, sì, ma sai, per quello che constava a lui e a tutti i musicisti dopo di lui, quel pezzo di musica non esisteva più, certo, non era assolutamente più leggibile. Senti, ma con questo metodo allora si può andare, so già che ci sono cose in corso di questo genere, si può andare a vedere appunto anche dietro quadri, no? Dietro tante cose. Sì, prima di tutto bisogna portare l'oggetto fisicamente a Stanford, dove va esposto a questo sottilissimo raggio di raggi X che lo deve proprio ricoprire interamente, e poi bisogna un attimo avere un'idea di che cosa tu vai a cercare, perché in questo caso si aveva un'idea della composizione dell'inchiostro che si voleva andare a cercare. Si sapeva che nell'inchiostro c'era del ferro, per esempio, mentre in una pagina il ferro non c'è, in generale c'è del carbonio, ci sono tutti gli altri elementi più leggeri, perché i raggi X per poter essere utilizzati per questo tipo di studio devono essere, diciamo, regolati in modo tale che facciano cantare certi elementi piuttosto che altri, perché che attivino proprio degli eccitare, elementi devono certo eccitare gli atomi dell'elemento che tu vai a cercare. In questo modo possono vedere delle quantità veramente trascurabili di quell'elemento, ma perché tu sai che in questo caso vai a cercare in questo caso si andava a cercare del ferro. E è una tecnica, diciamo, non invasiva, giusto? Assolutamente non rovina, no, assolutamente. Non rovina prima assolutamente. Di te parlavamo di uno Stradivari di 3 secoli, rimangono veramente intonsi. Il manoscritto è nero come prima. C'è una particolarità anche in questo spartito, già particolare in sé. Era scritto sia sul fronte che sul retro, quindi diciamo che la musica un po' si sovrapponeva, e grazie a questa tecnica, Patrizia, dimmi se sbaglio, sono riusciti proprio a identificare le due pagine in maniera distinta. Ricordiamoci che siamo alla fine del 1700 e la carta è estremamente preziosa, è molto cara, sì, e quindi viene utilizzata in tutti gli angoletti, e in particolare la musica viene scritta fronte sicuramente. Quando Cherubini ha annerito alcune parti del fronte della pagina e altre parti del retro, ma quello che è interessante è che quando la superficie di carta viene esposta ai raggi X, cantano, diciamo così, gli atomi di ferro che sono scritti sia nelle note a fronte di pagina sia nelle note a retro di pagina. Quindi potrebbe venire fuori una roba che Cherubini non ha mai scritto. No, perché sarà vengono fuori confusione. Le note sovrapposte degli spartiti del fronte e del retro. Però c'è un trucco che gli esperti hanno suggerito, che le note vengono scritte con una, diciamo, pallina, scusatemi l'espressione, e un'asticella attaccata. Sì, e l'asticella certo. può essere attaccata a destra o a sinistra, non è che ci sia una regola, però ogni musicista le attacca da una parte sola, fondamentalmente, okay. a direzione preferenziale. Ha una sua scrittura. Esatto, e quindi andando a vedere come i tondini si combinavano con le asticelle laterali, tutte quelle a destra appartenevano a una pagina, tutte quelle a sinistra appartenevano alla, al retro di questa pagina, e quindi è stato possibile effettivamente ricostruire la musica. E ascoltarla come abbiamo fatto noi all'inizio, che è davvero piacevole, bisogna dirlo. A te piace, a noi piace, non è brutta. No, no, ma sai, bisogna vedere cosa aveva pensato il pubblico della prima rappresentazione di Parigi. Noi non lo sappiamo esattamente che cosa avevano detto Cherubini, come Cherubini aveva reagito a queste critiche, eccetera. Chissà com'è andata, non lo sapremo mai. E chissà come la prenderà adesso, sapendo che qualcuno gliela ha tirate fuori così. Ma ci sono e discendenti ne stanno parlando Cherubini, anche in radio, no? Pensa. E magari potrebbe dire: perbacco, avevo detto io che era un vero capolavoro e non mi avevano capito. Bisognava aspettare due secoli perché mi capissero. Va bene, grazie Patrizia. Ciao, buona grazie, serata. Buona grazie serata a voi, buonasera a tutti. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Francesca Cerati, benvenuta a Nebius. Buonasera a tutti. Francesca Cerati, giornalista di scienza di Nova, l'inserto di scienza del Sole 24 Ore. Che brutta notizia che ci porti. Hai fatto un articolo estremamente bello, dettagliato, puntuale sulle truffe nei farmaci. Sì, un fenomeno che è decisamente in netta espansione. Sta crescendo. Sta crescendo e in maniera smisurata, addirittura del 90% se si considera dal 2005 al 2010. E poi ci dirà esattamente il perché sta crescendo, perché ci sono dei nuovi attori, nuovi vecchi attori che entrano dentro. Però sì, cerchiamo di entrare nel, più nello specifico. Cominciamo con le tipologie. Quali, tutti i farmaci, no? tutti? Allora, diciamo, rispetto appunto al fenomeno che si sta allargando, la tipologia dei farmaci anche quella si sta allargando, mentre prima era più legata ai farmaci legati alla potenza sessuale, quindi classico Viagra, diciamo, piuttosto che agli anabolizzanti e quindi farmaci cosiddetti di still life. Possono esserci anche i dimagranti e anche quelli della sfera, diciamo, psicologica, quindi antidepressivi, che richiedono ricetta e quindi è più difficile procurarseli in maniera legale, diciamo. Adesso si allargano anche a farmaci cosiddetti salvavita. Quindi. E quindi parliamo di antitumorali, farmaci per l'apparato cardiovascolare e gli antibiotici. E gli antibiotici. Scusa, però stiamo parlando di farmaci che uno va a comprare in farmacia, oppure sono quelli che ti arrivano solo durante una degenza ospedaliera? Ma parliamo per esempio di questi che uno va a comprare in farmacia, per essere molto chiari. Qui noi abbiamo dei farmaci con marchi famosi, dobbiamo aspettarci che non siano quello che devono essere? Allora, dobbiamo fare una distinzione. Appunto. Innanzitutto il fenomeno è aumentato anche a causa della possibilità di acquistare i farmaci in internet. E questo è un fenomeno che ovviamente si aggiunge al canale tradizionale. E lì è chiaro come avviene la cosa, certo. Allora, intanto diciamo cosa sono e come possono essere contraffatti i farmaci. Allora, ci possono essere i farmaci che non contengono il principio attivo dichiarato. Ci sono i farmaci che contengono una quantità minore di principio attivo dichiarato, ecco, e quindi comunque sono inefficaci. Pensiamo a un farmaco che viene utilizzato per ridurre la pressione. Se il quantitativo, quindi il dosaggio, non è sufficiente, questo farmaco non agisce, e per cui si corrono proprio rischi. Grossi rischi, perché uno si sente protetto e non lo è. Esatto. Oppure ci possono essere addirittura contenuti tossici, cioè sono stati ritrovati addirittura, sorrido, ma la cosa è tutt'altro che ridicola, ma arsenico, sostanze derivati dalla pittura come vernici, perché chiaramente chi truffa lavora in scantinati, insomma, diciamo in locali non idonei, non sono certo non è che laboratori asettici, tutt'altro. Non sono prodotti volontariamente, sono prodotti dall'habitat, dall'ambiente in cui uno si trova in uno scantinato col muro che crolla e c'è un sacco di cemento dentro, certo. Ho capito. Quindi succede che spesso chi lavora in questo settore, diciamo, chiamiamolo settore. Si mette d'accordo con persone che lavorano nei centri ospedalieri. Quindi c'è stato un caso, per esempio, in Cina, dove i farmacotrafficanti si sono messi d'accordo con gli operatori ospedalieri e riciclavano praticamente le confezioni dei medicinali vuote e inserivano ovviamente il farmaco fasullo. Siamo poco protetti, più che altro perché non esiste allo stato attuale una normativa globale e soprattutto una rete di sicurezza che faccia un controllo adeguato, sia nei canali, come dicevo, tradizionali e sia in internet. Sì. Allora, in internet si è visto che il 50% dei farmaci venduti in internet, ovviamente nei siti illeciti, è falso. E quindi è molto elevata la percentuale, spaventosa. E lì però è un problema grave, ma mi sembra evidente il meccanismo. Poi tu hai, per esempio, questo che riguarda i rifornimenti ospedalieri, lì abbiamo delle quote, delle idee, delle percentuali? No, questo è assolutamente impossibile. Diciamo che queste cose si verificano soprattutto in Cina e in India. Anche perché la prescrizione dei farmaci, per esempio in India, è diversa rispetto alla nostra. Si danno le pillole esattamente in maniera singola rispetto al trattamento, quindi se tu devi fare una cura antibiotica per 8 giorni e devi prendere 2 pillole al giorno, te ne danno 16. Non c'è la confezione e quindi è molto più facile truffare, certo. Questo è importante per chi si reca in questi posti, magari in vacanza. È assolutamente sconsigliato quindi acquistare sul posto farmaci. Quindi chi ha delle malattie croniche e quindi sa di dover prendere esattamente quel farmaco, è consigliabile partire già con il dosaggio giusto. Anzi, forse è meglio aggiungere anche una scatola in più di riserva, perché ricorrere sul posto non è il caso. Ma per quanto riguarda invece i nostri paesi, i nostri territori, il fatto che uno possa trovarseli in ospedale forse non è dato, no. Diciamo che se consideriamo il dato dell'OMS, che ha considerato che il 10% del mercato farmaceutico globale coincide con i farmaci contraffatti, quindi il 10%, però la maggior parte sono nei paesi in via di sviluppo che hanno strutture gracili, certo. Esatto, diciamo che l'1% riguarda i nostri paesi. Però ripeto, il vero problema dei paesi occidentali riguarda soprattutto chi acquista in internet. Questo, il problema grosso è lì. Il problema grosso è lì. E in farmacia il farmaco da banco oppure anche quello col marchio famoso, lì insomma possiamo essere abbastanza tranquilli, e sono addirittura le stesse aziende farmaceutiche produttrici che in qualche modo si autotutelano e quindi hanno costituito dei laboratori appositi di controllo. Questo legato anche alle polizie locali. Nel momento in cui loro identificano un lotto contraffatto, sono i primi a mettersi in contatto con le polizie locali e quelle doganali per arginare immediatamente il fenomeno, perché tutto questo è ovviamente un collegamento in rete. Certo. Sono le stesse case farmaceutiche che appena viene fuori un prodotto di provenienza, insomma, controllano esattamente e sono in grado di avvisare le autorità che c'è qualcosa che non funziona. Quindi c'è un doppio controllo, insomma. Sì, c'è un doppio controllo, anche se non esiste, come ti dicevo, una norma o delle leggi che possano arginare il fenomeno questo senso. Allora, i narcotrafficanti, dicevamo all'inizio, sono gli attori. Si sono resi conto in poco tempo, infatti è per questo che il fenomeno è cresciuto così tanto, che questo mercato è assolutamente redditizio e ha bassissimo rischio, perché chi incorre o viene preso appunto in flagranza di reato va incontro a una semplice multa, diciamo, quindi non è un reato penale come se fosse appunto o droga, incorre nel reato di violazione di brevetto, semplicemente quello. In pratica incorre solamente in una sanzione come chi tarocca una borsa firmata. Quindi assolutamente lontanissimo da quello che bisognerebbe fare come intervento. Esatto, e tra l'altro il fatturato che dà il farmacotraffico è superiore a quello del narcotraffico. Cioè adesso sta diventando più importante per i narcotrafficanti commerciare, immettere sul mercato illegale farmaci alterati piuttosto che... Sì, perché guadagnano di più nel contraffare un antinfiammatorio rispetto alla vendita di marijuana o cocaina. Cioè il processo produttivo, diciamo così, costa meno. Esatto. Allora, calcola che il ricavo solo nel 2010 del farmacotraffico è di 75 miliardi di dollari. Una bella cifretta. Impressionante. Esatto. E diciamo che 3,75 milioni è il numero di farmaci falsi che sono stati sequestrati sui siti online nel 2012, corrispondente a 10,5 milioni di dollari. Sono cifre astronomiche. Aggiungo che chi investe $1,000 in eroina, quindi parliamo dei narcotrafficanti, guadagna $20,000. Se la stessa cifra, quindi $1,000, vengono investiti in farmaci falsi, il narcotrafficante guadagna $400,000. Quindi è assolutamente un business. Quale indecisione per questi bandidos? Esatto. Buttiamoci su i farmaci. E immagino che tu avrai anche un dato molto sgradevole, che è che cosa significa tutto ciò in termini di vite umane, di gente che sta male, di vite perdute. Sì, diciamo che il calcolo che è stato fatto è che questo fenomeno uccide da 500.000 a 1 milione di persone all'anno. Ecco, magrissima consolazione, insomma, pensare che non è sostanzialmente un fenomeno che abbiamo intorno a noi nei nostri paesi, perché certo siamo tutti sulla stessa terra. Sì, però consideriamo appunto che essendo ormai un mondo globalizzato ci spostiamo in ogni continente. Certo. Pensiamo all'Africa e agli antimalarici. Certo, gli antimalarici in Africa sono tra quelli più contraffatti. Bene, cioè male, Francesca, il quadro è pessimo. Grazie Francesca. Arrivederci, grazie a voi. Lo so, l'immagine che esce dalle ricerche biomediche che riguardano lo spazio sono poco avventurose per quanto riguarda i viaggi umani. Non sarà facile. Non sarà facile perché stare senza gravità non fa bene al nostro corpo. Non parliamone per viaggi di anni, ma anche stare sulla superficie lunare non è cosa banale. Quindi è probabile che il futuro sarà la Blade Runner. Vi ricordate gli androidi che raccontavano le cose mai viste da umani? Ecco, ci andranno loro. Sulla Luna però c'è anche un problema. Ma di stare in piedi, e questo è più semplice. Si stanno studiando robot bipedi che riescono a camminare sul suolo lunare, dove la gravità è un sesto di quella terrestre. La difficoltà è che i piedi in pratica toccano poco il suolo sulla Luna. La forza che mette un uomo nel camminare, infatti, non può essere usata come sulla Terra, perché si avrebbe una spinta tale da far fare salti di 2 metri ogni volta. Sembra, in conclusione, che la tecnica migliore sia quella di imparare la pratica di una specie di piccola corsetta in punta dei piedi. Così hanno fatto gli astronauti, ma attenzione, l'esperienza fatta complessivamente è quella di poche ore di movimentazione lunare. Sono stati su un po' di equipaggi, ma insomma globalmente forse ci saranno, che ne so, 100 ore, credo, non di più. Comunque anche per i robot si sta pensando di prendere questa direzione, farli saltellare un poco, non tanto. Pare che renda anche meglio in termini di stabilità dei robot. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Studiare i fluidi è una delle cose più strane che si possano fare nella ricerca, perché c'è un primo strato molto semplice, no? Sono anche gli idraulici, insomma, né? L'idraulica studia i fluidi. E poi invece c'è sotto un mondo dove improvvisamente sì. I fluidi diventano quelli liquidi, ma poi possono diventare anche le persone, diventano il traffico. E allora andiamo a parlare di fluidi autostradali? Tu le definiti ecco. Così. No, va bene. Allora andiamo al Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Milano e andiamo dal dottor Alberto Vailati, diamogli il benvenuto. Buonasera Vailati. Buonasera. Eccoci qua. Allora, noi abbiamo iniziato così dicendo che i liquidi e i fluidi sono una cosa che in superficie, no, è molto, cioè, si parla di rubinetti e pressioni. Dopodiché, se andate sotto, è una delle, tra l'altro, è una delle scienze più complesse, no? È una scienza molto complessa, al punto che la branca della fisica che si occupa di alcuni aspetti della fisica dei fluidi si chiama proprio fisica dei sistemi complessi. Eh sì, proprio. per forza. E ancora c'è molto da fare, tanto che voi avete appena fatto una scoperta. Sì. Sì. Di solito si è abituati a pensare alle molecole di fluido, però quello che capita in generale nei sistemi complessi è che ci possono essere tante entità che interagiscono fra di loro e danno luogo a un comportamento che si chiama auto-organizzato. Quindi creano delle strutture enormi partendo dalla singola molecola. Cioè c'è un momento iniziale del fluido, no? Che prende, diciamo, ad attivarsi. Poi a un certo momento dentro questo flusso viene a crearsi una certa organizzazione. Sì, è quello che in fisica si chiama rottura di simmetria. Il fluido a un certo momento decide che collettivamente vuole comportarsi in un certo modo. Per esempio, se ho un fluido più pesante che sta al di sopra di un fluido più leggero, a un certo momento il fluido più pesante inizierà a affondare dentro quello più leggero a causa della forza di Archimede che ci insegnano fino dalle scuole. E si crea un certo ordine del fenomeno. Senta, ma vogliamo definire fluido? Perché è diverso da liquido, eh? Fluido è diverso da liquido e comprende qualsiasi materiale sia libero di fluire, quindi i liquidi ma anche i gas possono scorrere, fluire, mentre un solido non è in grado di farlo. Anche, noi ne abbiamo già parlato qui a Möbius qualche tempo fa, anche le persone, nel senso che per esempio all'uscita e all'entrata di un grande supermercato, hanno fatto tante ricerche, a un certo momento la gente si dispone naturalmente in una corrente che entra, una corrente che esce e non c'è un gran mischiarsi. Senza che queste persone si mettano d'accordo preventivamente fra di loro, quello che succede è che cosa fa una persona? Guarda davanti a sé, se davanti a sé vede una persona che si sta muovendo in avanti, la segue. E così si crea lentamente una coda di persone che si allineano e nella direzione opposta, in maniera auto-organizzata, si creano delle corsie parallele dalle quali le persone spontaneamente... Sono migliaia di piccole interazioni che però diventano coerenti. E qua tra l'altro ci stiamo avvicinando proprio alla vostra scoperta, perché più o meno avete scoperto una roba simile. Quello che funziona per la dinamica delle folle funziona anche nei fluidi. Anche nei fluidi, in questo caso ovviamente non c'è un'interazione visuale. Quello che succede è che Non si vedono gli omini. Nel senso, il liquido non vede l'altro liquido, ma lo sente in altro modo. Perché scorre, lo sente scorrere su di sé. E quello che succede è che si creano delle colonne di liquido che salgono o che scendono, a seconda che sia il liquido più leggero che sale all'interno di quello più pesante o più pesante che scende all'interno di quello più leggero. E inclinando la cella di misura, queste colonne si possono far spostare tutte nella stessa direzione. Facendole spostare, quello che succede è che si allineano l'una dietro l'altra e le colonne del liquido più pesante si spostano in una direzione, quelle del liquido più leggero si spostano lungo la direzione opposta, quindi creano delle vere e proprie corsie simile a quelle autostradali. Delle tangenziali. Sì, immaginiamoci, io ho visto un vostro video che ci avete mandato, che metteremo sul sito, di una simulazione che avete fatto in laboratorio, e si vede proprio come se fosse una statale con la colonna di macchine che va verso, diciamo, una direzione e l'altra colonna di macchine che va verso l'altra direzione. Immaginiamo di ripetere queste corsie per tante volte. Difatti, guardando questo video, insieme al dottor Fabrizio Croccolo, che è stata la persona che ha fatto tutta la parte sperimentale, il nostro primo commento era stato: ma qui sembra di vedere una di quelle grandissime autostrade americane dove ci sono a 20 corsie. Difatti il nome che abbiamo dato a questa forma, a questo effetto fisico, si chiama Superhighway Convection, quindi ispirato alle grandi autostrade americane dove c'è scorrimento Ci spieghi una cosa. Voi avete anche trovato un sistema per generare, favorire questo tipo di comportamento, oppure l'avete naturale, semplicemente, oddio, tra virgolette, l'avete individuato, l'avete registrato? L'abbiamo individuato, e abbiamo individuato anche quali sono i parametri necessari per indurre un comportamento di questo tipo, che non si verifica sempre, quindi anzi è abbastanza elusivo. Certo. Ma senta, in qualunque tipo di fluido, oppure cioè su dei fluidi particolari questa cosa? Per i fluidi, il bello della fisica dei fluidi è che si riesce poi a trasferire in maniera abbastanza semplice a fluidi di molto tipo. Per esempio le dimensioni caratteristiche del sistema non sono importanti, quindi quello che io studio in una cella in laboratorio poi posso trasferirlo in maniera più o meno diretta all'atmosfera terrestre o alla circolazione oceanica. C'è una fluidità fondamentale di base. Sì, certo. E anche gli stessi comportamenti li ritrovo su scale spaziali completamente diverse. In una cella saranno millimetri e nel caso di un oceano saranno chilometri, centinaia di chilometri. Dal punto di vista della fisica, appunto, credo che questa sia una scoperta molto importante. Però a noi comuni mortali, insomma, questo risultato può darci delle indicazioni? Ci possono essere delle applicazioni per questo tipo di scoperta? Ad esempio, il sapere che due fluidi si muovono in questo modo, in che modo noi possiamo trarre vantaggio? Non so. Allora, un vantaggio pratico tecnologico non è immediato. Dal punto di vista più fondamentale, per ora il nostro interesse è per capire meglio come avviene la circolazione negli oceani, perché anche negli oceani avviene un processo di questo tipo. Ci sono delle differenze di salinità nell'acqua, quindi l'acqua più salina è più pesante di quella meno salina, più densa, come direbbe un fisico, per cui tende a sprofondare all'interno di quella più salina. Okay. Ad esempio, se uno va sullo stretto di Gibilterra, il mare Mediterraneo è molto più salino dell'Oceano Atlantico, perché c'è una fortissima evaporazione di acqua, per cui aumenta la quantità di sale. Quindi che cosa succede? L'acqua molto salina del mare Mediterraneo tende a riversarsi nell'Oceano Atlantico, scorrendo sul fondo. Perché è più pesante. Stretto, perché è più pesante, e l'acqua fresca tende a entrare invece verso il Mediterraneo. Delle highway subacquee abbiamo. Per cui anche lì si crea una circolazione su grande scala che ha alcune analogie col tipo di processo che stiamo studiando. Beh, noi. Vedi, dice poco. So che gli studiosi di fluidi si interessano anche di un altro fluido alquanto fondamentale, che è il sangue. Anch'io lo stavo per dire. Allora, nel caso del sangue forse non ci sono, c'è una queste circolazione forzata, ma comportamenti cosiddetti convettivi di questo tipo non ce ne sono, tendono a non esserci, non perché siamo su scale. C'è una pompa importantissima che fa in modo che vada tutto allo stesso verso. Non c'è un sangue salato e un sangue più freddo e dolce. No? Ci sono degli scambi, ma non c'è. Ci sono due circolazioni diverse, arteriosa e venosa, in cui il sangue ha caratteristiche leggermente diverse, però non si osservano fenomeni questo di questo tipo. Va bene, grazie Vailati, complimenti allora. Grazie. Buon lavoro e buona continuazione della ricerca. Buonasera. Questa sera è con noi Danilo Bonato, direttore generale di Remedia, che è il consorzio per la gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici. Buonasera direttore. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Remedia coordina questo progetto che si chiama Glass Plus. È stata messa a punto una tecnologia per recuperare il vetro dei vecchi TV a tubo catodico e li trasforma in che cosa, Bonato? Li trasforma in piastrelle, sono delle piastrelle ecologiche, perché l'idea alla base di questo progetto è poter utilizzare un po' di vetro che noi otteniamo dal riciclo dei televisori, dei vecchi televisori, quelli pesanti col tubo catodico. Ecco, questo vetro ne prendiamo un pochino e lo inseriamo nell'impasto delle piastrelle. Questo ci dà una serie di vantaggi importanti. Questi TV sono andati quasi completamente in pensione. Quanti ne avete accumulati per poter essere poi trasformati in piastrelle in ceramica? Bah, solo nel 2011 in Italia ne abbiamo smaltiti quasi 3 milioni di pezzi. Mamma mia, una cifra veramente consistente, quindi mi immagino una montagna di tonnellate di vetro che appunto sarebbero andate, non dico perse, ma comunque non forse riutilizzate in questo modo così efficiente, perché che cosa riusciamo ad ottenere? Esatto, perché dobbiamo sapere che di questi televisori la metà del peso è fatto di vetro, quindi parliamo di grosse quantità. Allora l'idea è di dire, invece di portare questo vetro in discarica, e anche per dimostrare al cittadino, al consumatore, che il riciclo conviene farlo, perché poi ci sono delle possibilità di recuperare queste materie, l'industria elettronica che noi rappresentiamo si è alleata con l'industria della ceramica e in particolare un distretto nazionale che è quello di Sassuolo della ceramica, che è leader mondiale, e abbiamo fatto un'innovazione importante studiando un processo produttivo che consente di sostituire parte delle sabbie che si usano per l'impasto delle piastrelle con questo vetro fino al 20%, inserendolo nel processo produttivo, e quindi abbiamo delle piastrelle che come qualità, come design sono assolutamente perfette e quindi uguali o migliori in certi casi rispetto alla piastrella tradizionale, ma in più hanno questo vantaggio, sono delle eco piastrelle. Ecco, hanno anche un aspetto green. Esattamente, perché oggi i nuovi edifici si costruiscono secondo delle specifiche ecologiche che si chiamano, sono degli standard che si chiamano LEED, che vuol dire Leadership in Environmental and Energy Design, quindi attenzione all'efficienza energetica e all'ambiente, e queste piastrelle, proprio perché consentono di riutilizzare del materiale riciclato, danno dei punti che fanno molto comodo a chi costruisce edifici ecosostenibili. Ci dà ad esempio qualche numero? Non so, mi par di capire che per piastrellare un appartamento di circa 70 metri quadri quanti televisori più o meno dovrei utilizzare? Io devo dire, l'ho fatto a casa mia, e diciamo che 70 metri quadri vuol dire utilizzare circa 30 televisori, quindi se noi lo facessimo a casa nostra sarebbe carino immaginare appunto che ci sono lì dentro 30 televisori in queste piastrelle. Sono circa 300 kg di materiale, per cui farlo, scegliere questo tipo di prodotti, questo vale in generale per i prodotti che contengono materiali riciclati, ora stiamo parlando delle nostre piastrelle ecologiche, senz'altro è bello anche visivamente e a livello di contributo che diamo all'ambiente sapere di aver fatto qualcosa di importante, senza tralasciare la qualità, perché ribadisco, sono prodotti estremamente belli e qualitativi. Ecco, infatti sono belli e visivamente sono uguali, diciamo, lei dice forse anche migliori delle piastrelle normali, quindi non si percepisce alla vista. Assolutamente, che non sono si fatti. Rinuncia a nulla, se è un prodotto di elevata qualità, comunque sia un prodotto ecologico, perché consente di risolvere un problema. Pensiamo che se non avessimo soluzioni di questo tipo ci troveremmo nelle condizioni di portare il vetro in una discarica, sicuramente una soluzione non ottimale sul piano della tutela dell'ambiente. Sono già in commercio? Sono in commercio, ci sono diverse aziende del gruppo che ha sviluppato con noi questo progetto, che hanno messo a catalogo questi prodotti, sono chiamate ecopiastrelle, piastrelle ecologiche, quindi sono ordinabili e sono disponibili sul mercato. E a livello di costi come sono rispetto a quelle tradizionali, per capirci? Molto più costose o meno costose? No, diciamo che qui l'altro aspetto interessante è che i costi sono sostanzialmente equivalenti, quindi non c'è il problema di dover spendere di più per avere un prodotto ecologico. Hanno solo pregi, avranno qualche difetto? Ma l'unico difetto è che sono poco percepiti, magari poco promozionati ancora sul mercato, nel senso che il consumatore deve fare un po' di fatica per trovare un prodotto ecologico, deve capirne l'importanza, e quindi oggi il difetto è che c'è l'idea che siano prodotti di serie B. In realtà quindi il difetto è nostro nel non spiegare correttamente che si può fare una scelta ecologica non spendendo di più, contribuendo a far bene all'ambiente e senza rinunciare alla qualità. E quindi dove possiamo trovare qualche informazione in più? C'è un sito? Per quanto riguarda il progetto, il sito si può andare sul sito del Consorzio Remedia, www.consorzioremedia.it, o sul sito glassplus.it, che è il sito del progetto. Va bene, grazie direttore, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Nelle prossime ore, naso all'insù, perché vengono giù le stelle. Sì, le no. Stelle cadenti. Vabbè, sarebbe vabbè. Troppo lunga. Ma lo troppo sai difficile che non sono da spiegare. No, vabbè, ma è troppo difficile da spiegare. Quindi astrofili e grandi amatori, appassionati di cielo, tutti. Guardate tutti. Su in queste serate. E noi invece ci abbiamo finito il nostro tempo. Fra 7 giorni. Buona settimana di vacanza e non. A tutti e a tutte.